Mix 24 di Giovanni Minoli. Cresce pericolosamente la tensione tra la NATO e la Russia nelle more e all'ombra di un'apparente, complessa e ambivalente concordanza di strategie nella lotta contro il terrorismo islamista. Europa e Turchia hanno bisogno l'una dell'altra, ma continuano a litigare. Erdogan sa che all'Europa serve il suo aiuto e così alza la posta. Il ministro degli esteri italiano, Angelino Alfano, ha avuto anche un colloquio con il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Sul tavolo le crisi in Siria e Libia. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Abbiamo con noi il ministro Angelino Alfano. Dopo Mosca, Malta. Insomma, da Lavrov a Berlusconi? Noi abbiamo avuto con Mosca un rapporto molto chiaro e leale, perché anch'io personalmente ho detto da lì, da Mosca, che mi rifacevo alle posizioni assunte dall'Europa nel giudicare quanto era accaduto relativamente agli arresti di Mosca. Detto questo, ritengo politicamente un errore se un lavoro comune per isolare Mosca. Credo che qualsiasi persona di buon senso abbia l'interesse a che Russia entri in un gioco globale di lotta e di contrasto al terrorismo. Senta, ma è un nuovo inizio con Berlusconi? Berlusconi ha fatto le sue scelte, nel senso che si allea con Salvini. Noi abbiamo fatto le nostre scelte per la prospettiva di andare da soli e correre da soli, perché siamo un'alternativa popolare sia ad una certa sinistra, che è quella dell'indietro tutta, sia a chi come Salvini vuole uscire dall'euro e dall'Europa. Senta, sono programmi ideali con noi incompatibili. Senta Alfano, intanto mentre lei incontrava Lavrov a Mosca, Rouhani, il presidente iraniano, incontrava Putin. Si sta saldando una filiera che va dalla Russia all'Iran passando per la Turchia? C'è un sistema di alleanze a livello globale che va cambiando. La risposta dell'Europa non può essere quella di lamentarsi o di piagnucolare, ma quella di assumere un protagonismo e una leadership nuova di fronte al protagonismo nuovo di Putin e anche alla nuova amministrazione americana. Secondo noi la strada è quella del sistema comune europeo di difesa, perché se non abbiamo la forza di difenderci e di mettere in campo le nostre truppe e le nostre forze dove serve, conteremo sempre meno. Certo, ma la Turchia di Erdogan è sempre più lontana dall'Occidente, dalla NATO, sembra. Ci sono scelte che hanno preoccupato tutti, mentre relativamente ad altre questioni, e mi riferisco alla affidabilità nell'accordo sulle migrazioni che ha consentito di bloccare verso il nord il flusso dei migranti dalla Siria verso il nord Europa, in quel campo è stato fin qui affidabile. Eh beh, l'abbiamo pagato. A Malta c'è l'incontro, siete a Malta per l'incontro di tutti i partiti popolari. La presenza di Berlusconi che senso ha? Che significato ha? Lui fa parte del Partito Popolare Europeo e anche noi facciamo parte del Partito Popolare Europeo, che a livello continentale, insomma, di Europa, almeno a Malta siete insieme, insomma. Sì, però mi faccia concludere quello che stavo dicendo prima, sì. Che a livello continentale, a livello europeo, contrasta i populismi, cioè tutti quelli che vedono l'Europa solo un problema e ne vogliono uscire. Senta, però in Italia questo centro che tutti invocano non riesce a nascere, perché? Innanzitutto c'è stato un sistema che ha garantito la presenza di un centro molto forte all'interno delle coalizioni. Quando vi era la coalizione di centrodestra al governo, il centro era assolutamente prevalente sia sulla Lega che sulla destra. Adesso le cose stanno cambiando, perché a causa di tutto ciò che si è verificato in questi anni, la destra sopravanza il centro. Mi riferisco a Salvini e Meloni rispetto al partito di Berlusconi. Sì, allora, e anche a voi. Sì, perché non siamo insieme, siamo tutti separati. La nostra idea è quella di aggregare tutti coloro i quali sono alternativi agli anti-europeisti, perché per noi la scelta sarà determinata dal sì o no all'Europa. Noi diciamo sì all'Europa, ne riconosciamo i limiti, ma non vogliamo lasciarla, bensì cambiarla. Come la vogliamo cambiare? Facendo un piano di investimenti europei, rilanciando sull'occupazione, rilanciando sulla difesa e dicendo sostanzialmente come ha detto. Il tema per il futuro è quello di dare lavoro ai nostri giovani e sicurezza alle nostre città e anche alle nostre frontiere. Quella del centro, mi scusi onorevole, sembra un esercito con tanti capi e poche truppe. È il destino degli ex democristiani? No, anche perché non tutti sono ex democristiani, qui il punto è un altro, vi sono milioni di elettori che non vogliono votare a sinistra perché non hanno mai votato a sinistra e non cambiano idea, ma neanche andare appresso a Salvini, sì, e a tutti quelli che vanno a loro volta appresso alla Le Pen. Sentami. Si tratta di organizzare una proposta politica e noi lo faremo dicendo sì all'Europa e dicendo sostanzialmente, per quanto riguarda il ceto medio e le politiche sulla casa, noi siamo per restituire il valore agli immobili degli italiani e restituire valore ai salari degli italiani che hanno perso tanto in questi anni. Ministro Alfano, a proposito di destini, lei ha chiesto pubblicamente quale sia il destino del nuovo servizio pubblico della RAI, cui il governo ha riconosciuto in esclusiva il canone. Perché ha fatto questa richiesta? Ho detto questo perché dopo due anni, non ha fatto nessun piano editoriale ed è stato necessario inserire la necessità anche del piano editoriale in concessione per obbligare il direttore generale a farlo, nessun piano dell'informazione. Se c'è qualche successo di programma fiction è successo perché era stato deciso prima del suo arrivo e devo dire che ci sono state anche delle scelte come le assunzioni che sono state veramente stigmatizzate anche dall'autorità nazionale anticorruzione. Quindi il rinnovamento di idee di personale attuato da Campo dall'Orto non le basta, insomma, diciamo. Non l'ho visto, non è che non l'ha visto. Non l'ha visto. Significherebbe che l'ha fatto, ma non è sufficiente. Non si è visto. Questa RAI doveva stupire, investire sulla bellezza, sulla cultura, sul racconto di un'Italia meravigliosa che poi alla fine non si vede, si vede il racconto di un'Italia e solo magari una parte del nostro paese, non il senso complessivo di un grande paese che guarda al futuro. Senta, ma adesso il tema tra gli altri è quello del tetto dei compensi dei dirigenti, dei giornalisti e delle star. Va tolto o va lasciato? Io sono per lasciare assolutamente il tetto per i dirigenti. I dirigenti sono lì per fare un servizio al paese ed essere pagati il giusto. Poi in compenso hanno glorie e onori dal fatto di servire lo Stato, vanno a Sanremo, fanno le scenate davanti a 10 milioni di italiani, altri riconoscimenti morali, ma se vanno lì per guadagnare tantissimo, gli italiani pagano il canone, vuol dire che accettano una sfida e non quello che dovrebbe essere, ossia servitore pubblico viene pagato di meno, guadagnare di più vai sul privato. Ecco, quindi altra cosa secondo me sono coloro i quali fanno un altro tipo di carriera che è in competizione anche con reti private e altre, mi riferisco a determinate, le star, e per loro il ragionamento è diverso. Ma per coloro i quali servono, quindi dirigenti e giornalisti, uso appositamente l'espressione, servono, allora questo è secondo me doveroso. Per il dirigente che va lì per fare il direttore generale della RAI oppure per fare il servizio di amministratore della RAI, se vuole andare se ne va da un'altra parte. Senta, a guadagnare di più, ma se lo fa per il pubblico lo fa, se lo fa per il servizio pubblico guadagna di più. Senta, ministro Alfano, ma i 2 miliardi l'anno che la RAI dà al canone, allora cosa devono servire? Devono servire a raccontare un'Italia che ce la può fare e non un'Italia frustrata e depressa. Senta, un'ultima domanda che riguarda personalmente lei. È vero che si candiderà come presidente della regione siciliana con la lista Democratici e Popolari che prima sosterrà Orlando a sindaco di Palermo e poi lei alla regione? No, non è vero. Si tratta di scelte che sono state fatte a livello locale e che non preludono a nulla che mi riguarda. Cioè, ma lei sostiene Orlando a Palermo? Sì, noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo, ma sul piano territoriale noi abbiamo fatto delle scelte agganciate ai candidati a sindaco e non su uno schema di coalizione nazionale, anche perché la coalizione a livello nazionale, secondo la nuova legge elettorale, neanche esiste. Grazie e buon lavoro. Grazie. A lei buona giornata, grazie. Pietrangio, tu che sei il nostro esperto di Sicilia. Dimmi. Insomma, Alfano e Orlando al comune, è già un'alleanza particolare. Tu pensi che è l'ipotesi di una replica successiva alla regione o no? No, allora innanzitutto Orlando vince a prescindere dal fatto. D'accordo, però insomma, un'alleanza c'è. Per quel che vale, per quel che vale. Per quel che riguarda le regionali è inutile metterci mano. È vicolo buio, 5 stelle, fitto e si vedono solo 5 stelle. Va bene, e allora? E tu che dici, Mario? Insomma, questo centrismo che si trova a Malta intorno alla Merkel ha qualche possibilità di passare in Europa oppure no? Ma io ho l'impressione che Merkel rivinca in Germania. Questo ovviamente darebbe un forte impulso, diciamo, una certa direzione anche all'Europa, è molto, molto evidente. E il Partito Popolare Europeo oggi è ancora nelle mani della cancelliera Merkel. Berlusconi comunque può giocare un ruolo, perché l'Italia, se in Francia andrà come pare, cioè Macron vince al secondo turno e Merkel vince in Germania, a questo punto l'anello debole del sistema è l'Italia, cioè l'Italia, certo. Se Grillo dovesse confermare la sua forza di primo partito e non dovessero esserci coalizioni precostituite, è chiaro che l'Italia potrebbe, diciamo, scivolare o comunque fare una scelta di tipo sovranista ed euroscettica. A quel punto la palla della responsabilità del gioco europeista, per così dire, sarebbe nelle mani di Berlusconi. Sì. E quindi il ruolo del cavaliere è molto più importante di quello che si immagini, è ancora lui che dà le carte in qualche maniera. Qui lo diciamo da un po' di tempo, per ora sembravamo matti. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pietrangelo, che c'è di canzone oggi? Arriva. Un'ora sola ti vorrei. Che cosa sei per me? Un'ora sola ti vorrei. E dirti quello che non sai. Allora? Una folla di errori fatti, una ressa di mancanze, la moltitudine dei rimpianti sciamavano in metropolitana oggi e tutti a una sola voce urlavano, dicevano, sussurravano e cantavano un'ora sola ti vorrei. Ha chiamato Maddalena Robin, ovvero Roxane, ha voluto questo brano per suo cugino, Cyrano de Bergerac, con un messaggio: in un'ora tutta la nostra vita. Allora Mario, ma ha fatto venire voglia di cantare. Ma ha fatto venire voglia di cantare. Dai, forza. No. Qual è? Ma il tuo cavallo di battaglia qual è? In generale. Mi piace molto Battisti. Sì. Quale Battisti? Ma il primo Battisti. Ma quale Battisti? Dimmi una. 10 ragazze per me. Anche. Quello fate il coro voi due a cantate insieme. 10 ragazze dell'est non è male. Vabbè. Può essere la nuova sigla della Rai. Vabbè. Springsteen. Better days, va bene, giorni migliori, Giovanni, speriamo. Dobbiamo tenere d'occhio, insomma, noi stiamo in realtà citando e seguendo da un po' di giorni gli spostamenti di Rex Tillerson, il segretario di Stato. È americano, ovviamente, perché Tillerson è quello che sta ovviamente tessendo la tela per Trump. Viaggio in Turchia, poi visita per la prima volta e non doveva andarci, quindi è un segnale, diciamo, di attenzione. Si è in qualche maniera ricucito uno strappo che era in corso, quindi visita a Bruxelles al quartier generale della NATO, ripeto, prima volta, dirà ancora agli alleati, dirà che bisogna mettere più soldi ed è così oggettivamente, non fa una piega quel discorso, quella richiesta, e Però tutto questo avviene mentre il dossier del Pacifico, e in particolare della Corea del Nord, sta diventando sempre più grave, perché le immagini dei satelliti spia pare abbiano rivelato l'imminente test missilistico, l'ennesimo test missilistico di Kim Jong-un. Ma scusami, Kim Jong-un tira una bomba atomica sul Giappone o sulle coste sud degli Stati Uniti? Non farmici pensare. E poi cosa capita? Capita che la Corea del Nord affonda nel mare. No? Sì, allora c'è no, credo, non lo so. Allora, c'è un bellissimo libro che si chiama First Nuclear Strike, cioè che fa la teoria dei giochi di guerra. Certo, il First Strike è sempre stato il tema. Allora, lì potrebbe succedere veramente di tutto, perché a quel punto c'è una reazione. E cosa fa, e la domanda è, cosa fa la Cina, che è l'altra potenza nucleare? È d'accordo? Ah, dice che spara prima la Cina. E cosa fa la Russia, che è altra potenza nucleare? Cioè, bisogna vedere cosa fa. Dipende dove arriva, nell'ipotesi così, che speriamo assolutamente. Se arriva in Giappone rispondono gli Stati Uniti. Ecco, se arriva negli Stati Uniti rispondono gli Stati Uniti. Se arriva negli Stati Uniti rispondono gli Stati Uniti. Il problema è chi si becca le radiazioni, tanto per dirne una, e resta tranquillo, tanto nessuno per l'altra. Salamino, molto pericoloso. Dalle stalle alle stelle, 5 per la precisione. Oh, gli americani sono in allarme. Mosca punta su Beppe Grillo. Sì. Non ci posso credere. Ma sì, Washington teme l'influenza di Vladimir Putin sulle prossime elezioni e dà avviso a quel che resta dell'establishment italiano, perché si sa. Le stelle sono tante, milioni di milioni. E le stelle sono tante, faranno stalla della grande casa Yankee. Ma poi quale? Caro Mario, caro Giovanni, altro che hackers, manettoni, i pirati informatici di Siberia che hanno portato il bieco Donald Trump alla vittoria, soffiando la Casa Bianca alla squisita, alla buona, all'amorevole e dolcissima Hillary Clinton. Caro Mario, devi sapere che sulla stampa di oggi Paolo Mastrolilli, con dovizia di fonti, descrive fonti autorevolissime, fonti che sono fontane, descrive la preoccupazione degli Stati Uniti e di quel che, insomma, di quel che succede. Quindi perché... di Trump. Sì, sì, sì, perché dice che niente meno c'è il nascente patto tra la Santa Madre Russia e il popolo dei Vaffa. Ed è un'alleanza, caro Giovanni, che va a comprendere come in una matriosca anche la Lega di Matteo Salvini e, perché no, anche Giorgia Meloni, visto che svitando la bambolina di Putin... svitando, opla, chi viene fuori? Viene fuori Marine Le Pen, e con lei tutta la grande festa popolare e populista, quel ballo di gala che saluterà il tramonto della NATO e dunque anche la distruzione della UE. E vedono le stelle in America, e siccome mettono in conto le possibilissime batoste elettorali dei loro politici di fiducia nei vari protettorati, e cioè negli stati baltici, in Serbia, nell'area dell'ex Jugoslavia, a settembre in Germania, nella primavera del 2018 in Italia, spiegandosi, tu sai bene Mario, la sconfitta della Clinton con le intrusioni informatiche dei russi, oggi mettono le mani avanti immaginando una spettre tra la Piazza Rossa e il sempre vivo patto di Varsavia. Luigi Di Maio, Gigino Di Maio e Manlio Di Stefano, che è il futuro ministro degli esteri del governo Grillo, sono già al lavoro, e meglio di Totò e Peppino divisi a Berlino, già ragionano la strategia. Vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Andare. So, è una semplice informazione. E per andare dove bisogna andare? Dove? Bisogna andare a rivedere le stelle. E così tomo tomo, cacchio cacchio, intervistato dalla stampa, caro Mario, caro Giovanni, Di Stefano rintuzza su tutta la linea. Dice: Putin e Assad hanno vinto la guerra in Siria. Meno. Sono strategici contro il terrorismo. Meno. E poi dice, via dall'euro. Mm. UE NATO più deboli. Alleanza mediterranea e Putin interlocutore. Perché dice, ha già vinto su tutta la linea. Allora, detta così... Anche San Nicola è contento e per cui si esca a riveder le stelle. L'inno imperiale di Santa Madre Russia in onore di San Nicola che, ricordiamolo, è russo. Da Bari, ma è russo. Guarda di là. Ho capito. È una fiction che andrebbe fatta, allora, scusa, Giovanni, quella su San Nicola. Giovanni, io so... Anche se non si sa se San Nicola esiste o non esiste. Esiste, veramente. Cioè, esiste e soprattutto ci sono dei gran dubbi. Anche una doppia esistenza. Ah. Cioè quella, il famoso Babbo Natale, altro non è che San Nicola. Esiste, che bene. Cominciamo come con San Gennaro. Tutti i santi belli, simpatici, non devono esistere. Non ho detto che non devono esistere, ho detto che ci sono dei posso solo avanzare un dubbio storico, no? Sulla cosa che ha citato Pietrangelo sugli americani. Hai trovato le fonti? Gli americani, solitamente le cito, viene fuori una cosa meravigliosa. Cioè, perché io ricordo l'ambasciatore Thorn che diceva che i grillini erano una grande opportunità di governo per l'Italia. E a un certo punto gli americani, c'era Clinton, c'era Obama ancora, sponsorizzarono, diciamo, l'azione politica dei grillini. È molto sorprendente che oggi improvvisamente si cambi idea, anche perché in Italia non c'è ancora l'ambasciatore, quindi non ci sono i report, diciamo, della nuova amministrazione. Vabbè, tu dici sono delle voci, ma non sono identificate. Tant'è che non vengono, tant'è che non vengono citate le fonti. Washington chi? Washington è una città. Washington cosa? La Casa Bianca? Però non è giornalismo. Vabbè, che c'è? Washington, il Dipartimento, arriva in piazza, di Stato, cammina, incontra, prende un caffè, ascolta, lo sa, lo sente. E per caso incontra uno della CIA proprio dietro adesso, e gli dice: oh, sai che sui grillini non siamo d'accordo? Oppure sempre per caso incontra uno del Dipartimento di Stato, uno qualsiasi, gli dice: ma sai, tra un caffè e l'altro, questi grillini a noi non ci piacciono. Su questo problema delle fonti, vabbè, però la posso dire una cosa: scusa, ma si fa un grande dibattito nel mainstream media sulle fake news e poi fai un servizio col quale tu apri il giornale e non citi la fonte. Ma per favore. Vabbè. Allora, che è partito? No, la tua bolla. 10 ragazze per me. Va bene. Senti, io non ho fonti riservate, mi dispiace. Messo, dai. Quindi cito quello che posso, insomma. Insomma, sta Brexit come sta? Secondo me sono partiti piuttosto strong, molto forti, perché allora vabbè, la UE lo sapete, comunque vuole 60 miliardi dal Regno Unito, non li avrà mai ovviamente, e è ancora più ovviamente è cominciata una trattativa che si annuncia duretta, perché Juncker ha detto ve ne pentirete, non so se ieri hai seguito, Giovanni, un po' il dibattito, ma è stato abbastanza surreale, devo dire, perché Juncker ha fatto veramente la faccia feroce con il Regno Unito, tra l'altro forse un po' incautamente, visto che appunto devono cominciare una trattativa che non sarà serenissima, diciamo. La cosa interessante è che Theresa May ha detto vabbè, se rompiamo noi siamo pronti, sarà tutto più fair e certamente saremo collaborativi, ma se si rompe noi allora interromperemo a nostra volta la collaborazione sull'antiterrorismo con l'Europa. Questo con l'Unione Europea. Siamo proprio i ricatti più violenti. E allora sai, se questo è il preludio... Non è bello. Non è ecco, una ma cosa dalla bellissima. Parte dell'Europa chi è che tratta? Chi è che materialmente, come sono fatte le squadre dei trattatori? Allora, le stanno facendo adesso, e l'Europa ha una squadra molto forte. Pensa che, leggevo stamattina, che Danimarca, Spagna e altre ambasciate stanno rafforzando il loro personale adesso nel Regno Unito per cominciare a fare le trattative vere e proprie. Il ma è Juncker il capofila di tutta questa trattativa? Beh, quello che tesse le fila, sì. Quello che tesse le fila, sì. Poi c'è una task force, adesso mi sfugge il nome di chi la guida, così e tieni presente che la riscrittura di, parliamo di centinaia, di migliaia, certo, di documenti, accordi e così via, è ciclopica. È come se gli inglesi hanno 2 anni di tempo per farlo. È come se gli inglesi stessero rifondando. Buttafuoco, canzoniere. Eccolo. Calcolo della mania arrotonda la poesia, ricorre pure alla lima per aggiustare la rima, nel dubbio consulterebbe un ex tagliatore di teste della Nuova Guinea con cattedra Papua, per quanto è lesta nell'arte del canto, ne mena gran vanto. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. L'SMS non è facilissimo, questo è davvero un po' difficilissimo. Come? Dagli una col mano. Calcolo della mania rotonda la poesia. Allora, posso dare una mano, un aiutino? Allora, è un grande poeta italiano che hanno rimpianto tutti quando è andato via. Come se tutti lo conoscessero, come se tutti fossero stati vicino a lui. Un grande poeta italiano che ha trovato asilo a Roma. Non mi sono ricordato il nome del capo. Del importante. Capo dei trattatori. È Michel Barnier. Quindi. Va bene. Allora, ripeto, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, se si riconosce questo poeta italiano recentemente scomparso. Si può dire? Va bene come aiutino? Recentemente scomparso e su cui tutti hanno fatto come se fosse... No, ricordiamo... Scusa, posso ricordare una cosa agli italiani? Sì. La settimana prossima parleremo molto di manovra. Prepariamoci alle tasse. Portafoglio! Occhio al portafoglio! Per il mal di schiena. Pubblicità! Mix 24. Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. Oggi l'ultimo appuntamento con l'eccezionale storia di Raffaele Minichiello, il marine italiano che dopo essere stato pluridecorato in Vietnam nell'ottobre del 69 è stato il protagonista del primo e più lungo dirottamento della storia dell'aviazione civile. Made me shiver. With every paper I deliver. Minichiello ha affrontato a testa alta le conseguenze delle sue azioni. Oggi, a 67 anni, racconta la sua vita tra cadute e riprese, la detenzione a Regina Coeli, poi la ricerca di un nuovo equilibrio e purtroppo nuove ingiustizie, fino alla conversione, guidato da un verso del Vangelo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Did you write the book of love? Ma durante la sua detenzione a Regina Coeli le arrivavano ogni giorno centinaia di lettere da tutto il mondo. Ce n'è qualcuna che ricorda in modo particolare? Quelle della hostess. Ah sì, quella era la più interessante? Sì, mi ha scritto 2 volte, però purtroppo non ho mai risposto. Perché? Ma era molto difficile in quel momento la mia vita poter rispondere. Ma cosa le scrivevano gli emigranti italiani, per esempio? Molte di quelle scrivevano erano contro la guerra del Vietnam, e loro pensavano quello che io ho fatto era un eroe, praticamente un eroe. Le proposte di matrimonio erano più di ragazze italiane o americane? Ma di tutte le parti, comunque. Cioè, volevano sposare tutti? Sì, però io devo dire questa cosa che non ho mai detto. Io in vita mia ho trattato solo male una volta una donna. Questa donna mi ha scritto in carcere per tanti anni, ci siamo incontrate fuori e io... Ma trattata male cosa vuol dire? Cioè, in carcere lei mi scriveva, io gli rispondevo e scrivevo che noi avremmo avuto una vita insieme, dopodiché non è stato così. Gli raccontava un po' di bugie, insomma. Sì. Vabbè. Ma ha avuto anche lettere con insulti oppure no? Qualcuno non viveva solo come un eroe, ma anche come un traditore. Ma certamente, ci stavano delle lettere abbastanza forti, dice dovresti rimanere, per me dovresti rimanere in carcere tutta la vita, dovresti... Questo sì. C'è stato anche quello. Sì, sì, sì. Ma è vero il messaggio con su scritto bravo firmato da Ethel Kennedy, la vedova di Robert Kennedy. È vero oppure è una leggenda? Non è una leggenda, è l'avvocato Zappacosta, approvato, perché il telegrammi poi io l'ho dato anche a lui, l'ha visto, lui ha fatto ricerche e ha detto che era lei. Era Ethel che le ha scritto, sì. Bravo. Sì, bravo. Ma in attesa del processo tutti le consigliavano di farsi passare per matto per ottenere l'infermità mentale e farsi ricoverare in un manicomio criminale. Lei però era un marine, ha affrontato le conseguenze delle sue azioni. Come si comportò il governo americano durante la sua detenzione? Io non ho chiesto l'infermità, i giudici hanno chiesto una perizia, i psichiatri hanno fatto il risultato normale. Il governo degli Stati Uniti, io ammiro gli Stati Uniti, si sono comportate veramente bene. Due volte è venuto in carcere un addetto militare della Marina degli Stati Uniti ad offrirmi aiuto sia economico che legale. Cioè praticamente in quanto militare le fu offerta un'assistenza dal governo americano. Esatto, ma veramente la prima volta che è venuto io l'ho trattato un pochino così male. La seconda volta ho capito qual era l'importanza, che veramente è un paese straordinario. Ma al processo sono stati chiamati tutti i testimoni americani. Il comandante Cook si difenderà dalle accuse di Hoover, il capo dell'FBI famosissimo, di non averla fermata per evitare un massacro e soprattutto la probabile distruzione dell'aereo, così sosteneva Hoover. Oltre a Cook, lei rivide anche il suo angelo custode Tracy? No, io ho visto nel 2009, ho visto negli Stati Uniti il secondo pilota e la hostess Charlotte, in quelle che ho preso la prima. Tracy, ancora la cerchiamo? La cerchiamo ancora. Ma c'era stato un po' di tenero fra voi due? Sull'aereo noi abbiamo avuto, diciamo, è stato un amore, penso, platonico. Perché io non l'ho mai minacciato nessuno. Lei ha dichiarato comunque alla stampa che io non gli ho mai puntato il fucile. Ma cosa c'è scritto adesso sul suo casellario giudiziario? E nulla. Ma quindi ha acquistato tutti i suoi diritti civili, politici in Italia e negli Stati Uniti? Più negli Stati Uniti che in Italia. Ah, perché, sì, perché? Perché se mi ferma la polizia in Italia, quando metti il mio documento, vede, io gli dico, guarda, è successo 50 anni fa, non sono. Però comunque li viene fuori tutti. In America invece io niente, no, cancellato. Ma hai chiesto la grazia al governo degli Stati Uniti? Sì, ho chiesto al presidente Clinton, gli ho chiesto la grazia. Dopo circa un mese e mezzo che ho mandato una lettera, mi è arrivato due persone dall'ambasciata a spiegarmi che lui non poteva, io avrei dovuto fare un percorso diverso. Un percorso diverso, sì. Ma uscito dal carcere nel maggio del 71, lei non ha ancora compiuto 22 anni e ha ancora tutta la vita davanti. Grazie all'aiuto dell'avvocato Zappacosta rimedia i primi lavoretti come cameriere, poi incontra Cinzia, una bella ragazza romana con cui mette su famiglia. La vostra vita scorre tranquilla fino all'85, quando la moglie resta di nuovo incinta. Sua moglie muore dopo essere rimasta sola per 5 ore in sala travaglio per un'embolia. Morte naturale, dice l'inchiesta, ma per lei fu una tragedia dovuta alla negligenza dei medici verso i quali ha maturato propositi di vendetta. E allora che ha elaborato quello che ha definito il progetto? Esatto, perché vede, mia moglie è stata 5 ore da sola, mia suocera era di fronte alla porta a pochi metri di distanza che chiedeva continuamente, dice, ma perché tutto questo tempo posso entrare a vedere mia figlia? Gli è stato sempre negato. Lei si è sentita male, è morta anche il bambino, nessuno si è reso conto di quello che è successo e c'è una mancanza da parte del... E lì lei ha elaborato il progetto. Sì, lei deve credere, quando uno ama una persona così tanto, decide dopo tanti anni perché non può avere un secondo figlio, ha un figlio e poi vede sua moglie morta e il bambino morto e perde la testa. Il suo piano era quello di piazzare una bomba durante un convegno medico a Fiuggi per dare un segnale contro la mala sanità, è così? Ancora di più. Cioè? Purtroppo il mio progetto era quello di fare un attentato con armi e con esplosiva a un convegno di medici internazionale, perché io ero convinto di poter cambiare il corso della medicina e doveva essere il più grande possibile. Quindi una strage praticamente. Esatto, sì. Esatto. Ma a un passo da questa strage, dal baratro, un suo amico benzinaio la converte alla fede regalandole una copia del Nuovo Testamento dei Gedeoni, un'associazione evangelica di cristiani che vanno in giro per il mondo a diffondere la Bibbia, così, sì. Esatto. Ecco, ma quale passo del Vangelo la convinse ad esistere? Io l'ho ricevuto, lo stesso Nuovo Testamento che ho ricevuto a Roma nell'85, l'ho ricevuto in Vietnam tra il 23 e il 24 dicembre del 67, che ho portato appresso nel mio taschino, ho cercato di leggerlo, ma non riuscivo a comprendere quello che c'è scritto. Nell'85, dopo la morte di mia moglie, mi è stato regalato lo stesso, in versione italiana naturalmente, certo, e ho cominciato a leggerlo. C'è stato tutto un percorso di tempo. Il verso che ha cambiato la mia vita si trova in Luca 23, versetto 34, che tutti noi conosciamo. Dice: Padre, perdona loro perché non sanno quelle che fanno. Questo era Gesù che parlava, Dio. Mi sono reso conto in quell'istante, con questo versetto, che io non avrei fatto altro che portare una sofferenza enorme in tantissime famiglie e non sarebbe cambiato niente. Da quel momento, guardi, io non ho risentimento verso le persone, anche se ho problemi, come tutti noi abbiamo problemi con altre persone, ma non ho risentimento come avevo prima. Una nuova nascita, si dice. Ma nel 2003, sul set del film The Passion, girato a Matera, lei ha incontrato l'attore e regista Mel Gibson. In quel periodo avevo una gelateria a Via del Corso, vicino a Natalessa Via del Corso, e veniva tutti i giorni una donna, una signora, una bellissima donna, con due bambine, veniva da me a prendere il gelato. Siccome io parlavo inglese con lei, lei mi diceva: mio marito sta facendo il film con Mel Gibson, che io non seguo molto, non conoscevo. Poi un certo giorno mi spiega bene che cos'era, e poi viene lì a prendere il gelato nel Gibson, e parliamo del fatto che lui ha conosciuto la mia storia e lui è interessato a fare un film. Ma è vero che le ha firmato un assegno in bianco per convincere a fare un film sulla sua vita, che lei lo ha stracciato di fronte a lui, oppure una leggenda? E questa è una leggenda, però lui era veramente intenzionato a fare il film. Ma e quindi sto assegno non c'era, sta stracciato? No, non è vero. Ma che cosa fa oggi lei? A 67 anni io come... La vedo benissimo, quindi... sono cadute... No, la vita è bellissima, però ci sono sempre dei problemi, questo succede. E io credo in questo, che uno cade, si deve rialzare, perché deve rimboccarsi le maniche e deve ricominciare. La vita è questa, e adesso io sono in un percorso che mi sto rialzando di una terza caduta. Purtroppo ho avuto un altro matrimonio che è stato un matrimonio sbagliato e mi ha buttato per terra. Insomma, le donne le piacciono tanto, tre matrimoni. A me tantissimo, però mi piace una donna per volta. Io sono fedele, D'accordo. Per finire, un'ultima domanda: lei si sente più americano o più italiano? Si può uno dividere in due? Sto bene qui, sto lì, sto bene lì. Un'ultimissima cosa, Menichello: ma in Vietnam non ci tornerà mai più? No, io in Vietnam ci torno, perché è un paese stupendo, bellissimo, e anche la gente mi piace. Voglio tornarci, perché così posso anche forse interiormente ho qualcosa che devo chiarire, qualche cosa da chiudere, da qualche chiudere. Ferita ancora aperta. Sì. E finché non vado, forse non si chiuderà mai. Ricordo il libro Il Marine, Pierluigi Vercesi, storia di Raffaele Minichiello, il soldato italo-americano che sfidò gli Stati Uniti d'America. Zero zero ventiquattro, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Mix 24. Ma perché la chiamano Califfo lei? Ma mi chiamano Califfo appunto per questo mio harem. Le donne sono state una componente importante nella sua vita. Scherzi a parte, le donne sono importantissime, soprattutto perché sono le mie ispiratrici. Sì, d'accordo, l'incontro. Il 30 marzo del 2013 scompare un artista amatissimo dal pubblico. È Franco Califano, cantautore e poeta sulla cresta dell'onda per 50 anni. Uomo stravagante e trasgressivo, e autore di alcune indimenticabili canzoni italiane. Nato nel 38 a Tripoli durante uno scalo aereo, passa un'adolescenza difficile nella periferia napoletana, entrando e uscendo dai collegi, poi approda a Roma, città che lo adotta e lo ama. Tutto il resto è donne, successo, alcol, eccessi e droga. Nel 70, all'apice della sua carriera, Califano viene arrestato insieme a Walter Chiari e a Lelio Luttazzi per possesso e spaccio di stupefacenti. Verrà assolto, ma anche quell'esperienza diventa canto. Cosa si prova quando ci si trova in una cella? Si prova molta amarezza e moltissima rabbia. Ma è un'esperienza importante? È un'esperienza terrificante, ma che sicuramente ti può risultare l'esperienza più positiva in futuro. Rifiuti di pensare a un'avventura. Nel 2005 arriva la consacrazione. La New York University gli conferisce la laurea honoris causa in filosofia. Con tutto il resto e noia, si legge nella motivazione, ha scritto la più bella sintesi della filosofia dell'uomo latino. Dunque, a 4 anni dalla morte, ricordiamola, dedichiamo la puntata della storia a Franco Califano. Abbiamo un vincitore, Sofia da Genova. Sofia da Genova, buongiorno. Buongiorno. Sofì, francese? No, veramente dovrebbe essere Sophie, perché... Ah, Sophie, perché? Ricorda una ragazza tedesca. Ah, ok. Sophie, allora. Che fa di bello Sophie a Genova? Vivo. Vive e basta, ma lavora, fa qualcosa? Sono una prof di italiano e latino in pensione. Ah, brava. Ah, ok. Allora... Chi allora è Valentino Zeichen. Giusto, giusto, bravissima. Allora auguri. Non era facile. Non era facile per niente questa. No, no. Bene, auguri. Qui Mario, c'è una domanda per te. Sì. Perché Manuela ci chiede, per favore, ripetete il libro citato da Mario Secchi? Sì, il titolo è Nuclear First Strike. L'autore è George Quester, non è tradotto in italiano purtroppo. Non è tradotto in italiano. No, tra l'altro c'è poca bibliografia su questo singolo tema in particolare. In italiano pochissimo, in inglese c'è molta roba. Senti, c'è ancora un aggiornamento? Sì, no, stanno succedendo parecchie cose. Ti faccio una panoramica. Intanto è venuta fuori la data della visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, il 6 di aprile, 6-7. Il 6 in Finlandia e il 7, sì, quindi insomma, è un incontro, come si può ben capire, fondamentale. Poi l'altra cosa interessante, secondo me, da guardare in prospettiva è il fatto che l'inflazione in Spagna ha frenato moltissimo, è passata dal 3 al 2, quindi si stanno aprendo dei buchi veri e propri nell'eurozona sull'inflazione. Ora, questo... Che era programmata al 2%. Sì, e soprattutto ci si aspettava che continuasse a salire. Questo significa molte cose, potrebbe cambiare le scelte di politica monetaria e quindi di politica economica. Perché? Perché per esempio tu devi fare il taglio del programma di acquisto dei titoli di Stato in base anche all'andamento dell'inflazione. Alla previsione dell'inflazione. Cioè. Allora le pressioni della Germania in questo caso avrebbero un sostegno minore, perché l'inflazione in realtà non è così alta come si pensa. Deriva molto, se posso solo dare una spiegazione, dai prezzi energetici, cioè il calo del prezzo del petrolio nelle ultime settimane ha influito sicuramente su questo dato, anche perché il rialzo era dovuto a quello. Quindi. Bene, adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, settembre 2016. L'agopuntura per la stitichezza. L'agopuntura è una delle tante cosiddette medicine alternative, però è una di quelle che ha degli studi che ci permettono di capire se funziona o non funziona, degli studi ben fatti che hanno un riscontro poi nella pratica medica quotidiana. Allora, i ricercatori qui hanno voluto vedere se l'agopuntura aiuta nella stitichezza. 15 ospedali in Cina, 1075 pazienti, di cui la metà trattati per una stipsi severa, senza cause patologiche ovviamente, con 28 sessioni di agopuntura in 8 settimane. Il risultato veniva misurato con un'attenta valutazione dei movimenti intestinali completi, cioè quante volte le persone poi andavano al bagno con appunto movimenti intestinali completi e spontanei, che erano 0,87, cioè meno di 1 la settimana per il gruppo senza agopuntura, e 1,76, quasi 2 volte la settimana, quindi efficace, per coloro trattati con agopuntura. Per di più, il 35% di quelli trattati con agopuntura aveva almeno 3 movimenti completi a settimana, contro il 13% dei controlli. Ma l'unico caveat, l'unico dubbio mi viene perché lo studio ha uno sponsor che è il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese. Non che il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese truffi sui dati, però certamente è una cosa che avrei il piacere di ricontrollare in Occidente. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi si augura che un disco o un dubbio riporti al passato un amore ormai troppo lontano. Giuliano Palma, Pensiero d'amore. Yeah. Oh yeah. Stasera voglio farti un regalo che ti faccia ricordare chi scordarti non sa. Ho sentito questo disco suonare, l'ho comprato.